si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, mi sembra che si stia battendo un po' la fiacca sul sito di Radio 24, dove c'è il concorso per scegliere le vostre storie preferite di questo primo anno di trasmissione e dove voi ascoltatori che partecipate potete portarvi a casa un soggiorno vacanza sostenibile offerto dagli amici di EcoTube, quindi insomma una bella opportunità. Come si fa? È molto semplice, si va sul sito, si vota le quattro categorie delle storie proposte, si votano tutte e quattro, si lascia la propria mail e poi quando ve lo diremo noi in una puntata tra qualche settimana dovrete inviarci un SMS con la mail con cui vi siete registrati. A quel punto i più veloci vinceranno questi premi. Come ve lo comunicheremo quando ci sarà la puntata X? Ve lo comunicheremo su Facebook e su Twitter, lo diremo anche in onda, quindi diventate amici della pagina Facebook già da subito e così saprete quando potete partecipare alla, a questa concorso, insomma, per portarsi a casa un soggiorno di EcoTube, una bella iniziativa. Ma adesso cominciamo subito la puntata di oggi. Prima di tutto, numero verde 800 24 00 24. Parleremo anche dell'iniziativa da Parma. Stop agli abbonamenti allo stadio gratis per i consiglieri. Vogliamo sapere nelle vostre città se sono state prese delle misure così. 800 24 00 24. Adesso qualche notizia per iniziare. Cominciamo dall'Emilia-Romagna. Gioco d'azzardo, dall'UDC arriva un progetto in regione di legge per contrastare la dipendenza. La proposta è questa: creare un fondo per finanziare iniziative di formazione per il personale che opera nel settore, mediante corsi per distinguere quando entra qualcuno nel negozio e imparare a riconoscere qualcuno che è affetto dalla ludopatia, una vera e propria malattia del gioco. Una piccola tassa ai gestori che guadagnano molto con le macchinette, con le slot machine, per fare questi corsi e per aiutare a prevenire la ludopatia. Una iniziativa, però è solo una proposta di legge dell'UDC in Emilia-Romagna. Questa notizia arriva invece da Livorno. All'ITIS Galilei, lavori socialmente utili al posto delle sospensioni. Chi non ha mai rischiato almeno una volta a scuola la sospensione si rimane a casa. La preside dell'istituto ITIS di Livorno invece dice no, si viene a scuola e si fa lavori socialmente utili, per esempio si imbianca la scuola, e lei ha ragione, insomma, secondo me. E quindi magari chissà se in qualche altra città viene voglia di copiare questa iniziativa. L'ultima segnalazione è una curiosità, viene da Ventimiglia. Vigili in prestito. L'assessore della Polizia Municipale di Camporosso ha proposto alla frazione vicina e a Ventimiglia di scambiarsi i vigili, cioè lui gli dà i vigili urbani per il controllo del territorio e si fa dare in cambio le macchinette per fare i controlli, i telelaser, così si ottimizza e è un modo anche questo di fare la spending review. 800 24 00 24, tra poco anche con i vostri interventi. Oggi andiamo ad Adro. Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si è tornati in settimana a parlare della scuola di Adro, quella dove il sindaco aveva messo il simbolo del sole e delle Alpi, che poi il tribunale gli ha fatto togliere perché era un simbolo di partito e in una scuola non ci poteva stare. Perché si è tornati a parlare di Adro? Perché il comune continua a non riconoscere il sostegno economico per la mensa ad alcuni bambini le cui famiglie risultano o risulterebbero sotto i limiti necessari per ricevere questo aiuto, da cui anche il vengo anch'io no tu no, cioè non puoi venire in mensa se non paghi, però io non me lo posso permettere. del comune non mi aiuta. E allora di nuovo si è fatto vivo un benefattore anonimo, si sono messe in moto anche le maestre che hanno proposto di pagare loro per questi bambini che non hanno bisogno. Ora, quando si sente dire che i bambini non possono andare a pranzo, insomma, è sempre una brutta notizia. È invece sempre una bella notizia quando qualcuno si muove a solidarietà. Adesso cercheremo di capire bene cosa c'è dietro questa vicenda. L'abbiamo convocato Romana Gandossi, maestra in pensione, che è ispiratrice di queste iniziative di solidarietà. Romana, buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto, chi è che ha manifestato questa solidarietà nei confronti dei bambini? Anzitutto è stato il benefattore di 3 anni fa, Silvano Lancini, che era intervenuto a coprire il debito di 8.600 euro. Che era iniziato come benefattore anonimo, poi però è diventato famoso anche perché il napoletano gli diede, lo fece diventare cavaliere, no? Se non ricordo male. Cavaliere, esatto. Però Silvano Lancini ha continuato a pagare fino a gennaio, fino alla fine dell'anno scorso. E quest'anno abbiamo pensato, quelli che si occupano di pagare ogni mese con i suoi soldi direttamente al comitato mensa, abbiamo pensato che era ora di smettere di pagare con i soldi di Silvano Lancini e abbiamo avvertito i genitori che quest'anno non avremmo pagato, però li abbiamo invitati a lasciare i bambini a scuola. E hanno cominciato le lettere di giunzione di pagamento e di minaccia, di espulsione, hanno cominciato ad arrivare nelle famiglie. Sì. Queste mamme che conoscevano me per questo passato le hanno portate da me. Io ho redatto una scheda con la situazione abitativa, lavorativa e col debito e l'ISE, soprattutto con l'ISE. Insomma, abbiamo fatto volantinaggio, un'assemblea, manifestazione per raccogliere fondi e fino adesso non abbiamo pagato. Abbiamo cominciato a pagare quando le maestre, saputo che c'era questo problema, hanno deciso di pagare loro per gli alunni che avevano in classe, conoscendo bene la loro situazione. Ho capito. Io però adesso le voglio chiedere, la prossima domanda è questa: come mai? Perché il sindaco dice che sono in pratica dei finti poveri. Allora io dico, come mai se sono dei finti poveri, delle persone come le maestre, il benefattore anonimo, il primo, il secondo, gente della zona, si è mossa in prima persona per pagare queste rette a dei finti poveri? Questa è la domanda che le voglio fare. Tra un attimo, dopo il traffico, Romana. Cosa abbiamo di buono questa sera? Cosa c'è di buono? Oh. Pulpetto! Di Bavaria. Peccato, tu non puoi mangiare. No. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Tu mangia! Tu mangia! Infermieri! Infermieri! Lui mangia! Tutto lui mangia! Cari amici di Adro e dintorno, chiamateci all'800 24 00 24. Se conoscete questa vicenda potete dire la vostra. La mensa per i bambini della scuola Miglio e la questione che il sindaco dice no, sono finti poveri, non hanno diritto agli aiuti. Romana Gandossi, sono o non sono finti poveri? C'è qualche imboscato tra questi bambini che, i cui genitori non pagano regolarmente la mensa o no? Come ripeto, davanti a degli ISE da 300 euro a 3.000 euro e qualcosa, se l'assistente sociale dice che gli ISE sono falsi e poi davanti alla mia richiesta a dimostrarlo che sono falsi, l'assistente sociale mi dice sono vecchi. Questa assistente sociale precaria ha senz'altro ricevuto degli ordini da un sindaco che si è mostrato, da quando è diventato sindaco, un razzista. Che è diventato sindaco promettendo di ripulire il paese dalla feccia extracomunitaria. Quindi non so cosa dire, se non si crede neanche agli ISE, io non so cosa si deve fare, perché questi bambini che vivono in condizioni che le loro maestre conoscono meglio dell'assessore ai servizi sociali. Ora, c'è so da dire sì. Per questi bambini. C'è da dire una cosa, che o la procedura del comune è sbagliata, c'è qualcosa che non funziona, oppure può anche sorgere il dubbio, siccome poi il sindaco si è candidato alle elezioni, che sia stata usata questa vicenda, faccio il duro contro gli sprechi e contro i privilegi, anche per farsi un po' di pubblicità. È possibile anche questo, però in questo caso sulle spalle dei bambini sarebbe così. Senta, ma ce ne sono tanti di stranieri lì ad Adro? Cioè avete una percentuale esorbitante rispetto ad altre zone? No, non più degli altri paesi, un 10%. Mm. Senta, ma è questo spirito che ha animato le maestre, che hanno detto, beh, adesso paghiamo noi, ci tassiamo noi, ce lo vuol descrivere? È una battaglia, sì, contro il sindaco, o è proprio una questione che voi cercate di dare una mano a questi bambini? Le maestre desiderano sentirsi di fronte ai genitori al di sopra delle parti, perché in questo paese è stato creato un grande conflitto, c'è una divisione profonda tra cittadini e cittadini, però le maestre capiscono che questo è ingiusto, le maestre conoscono i loro bambini, stanno aiutandoli già con i quaderni e con il materiale didattico, e quando appunto hanno saputo che non sarebbe intervenuto nessuno per aiutarli, sì, hanno detto ci pensiamo noi, pagherò direttamente. Io sono felicissima che le maestre si siano comportate così, perché danno la dimostrazione che Adro non è un paese completamente razzista. Ma no, ma assolutamente. Ma chi sono i bambini? Sono tutti figli di stranieri? No, perché ci sono anche, mi diceva lei, dei bimbi italiani. Sì, abbiamo scoperto che c'è anche una famiglia italiana immigrata da un altro paese. E comunque, insomma, adesso le cose stanno molto, molto, molto meglio. Molto meglio, e credo che l'atto delle maestre, il fatto che il dirigente abbia proposto adottiamo noi questi bambini, l'ha proposto all'inizio dell'anno scolastico, e poi noi abbiamo tirato fino a gennaio per dimostrare che nessun sindaco può minacciare di mandare i vigili a portare via i bambini morosi dalla scuola se i genitori non li ritirano. Abbiamo dimostrato questo e adesso abbiamo deciso di parare. Quindi sia perché sono arrivate tante offerte, anche un giornalista ha mandato 1.000 euro, tante offerte di adozione, sia perché è intervenuta anche, sì, insomma, sono intervenuti un po' tutti. Insomma, abbiamo voi andrete sufficienti prima che intervenisse il benefattore di Milano, che ringraziamo col cuore, perché lui provvederà a pagare la mensa fino al compimento della legislatura di questo sindaco. Va bene, io la ringrazio, Romana Gandossi, maestra in pensione, animatrice di queste iniziative di solidarietà. Devo dire anche che abbiamo sentito in settimana il sindaco di Adro, l'altra campana di questa vicenda, quindi dal punto di vista della radio siamo con le spalle coperte, abbiamo sentito, perché ci sono evidentemente due campane che suonano molto forti, e era giusto dare la voce anche a chi si è mosso in questa iniziativa di solidarietà, perché insomma, finché voi sentirete dentro di voi il fatto che c'è qualche bambino a cui viene tolto questa possibilità, questo diritto di mangiare come gli altri alla mensa, voi, mi sembra di capire, andrete avanti con le vostre iniziative di solidarietà e quant'altro. Romana ci ha abbandonato, va benissimo, tanto avevamo concluso. 800 24 00 24, se siete nella zona e conoscete la vicenda, perché altrimenti non ha senso intervenire così su questioni ideologiche, allora chiamateci e dite la vostra anche sulla vicenda di Adro. Abbiamo sentito la solidarietà delle maestre di Adro, ma c'è anche quella del parroco a Napoli, della chiesa di Santa Maria e della curia della città, che ha affidato la gestione delle visite turistiche alle catacombe ai ragazzi del Rione Sanità, ragazzi che si sono organizzati con una cooperativa per svolgere questo servizio che va alla grande. I turisti sono contentissimi, da cui anche la scelta musicale dei Tre Allegri Ragazzi Morti, visto che parliamo di catacombe. Vincenzo Porzio, tra i fondatori della cooperativa, buongiorno Enzo. Buongiorno a tutti, salve. Eccoci qua. Allora, prima di tutto, quando si parla dei ragazzi del Rione Sanità, noi che non siamo di Napoli, cominciamo a immaginarci proprio delle scene di teatro, chi sono questi ragazzi del Rione Sanità? Ma se voi immaginate scene di teatro, non sbagliate, la teatralità fa parte, è nel nostro sangue, è il quartiere nel quale è nato il principe della risata, Totò, quindi assolutamente non si sbaglia. I giovani del Rione Sanità sono dei ragazzi che ad un certo punto si sono accorti di quanto bello c'era nel quartiere, di quanto patrimonio storico-artistico il quartiere custodiva, e amando la nostra città abbiamo deciso di far diventare una passione un lavoro. E sembrava un'idea molto bizzarra, molti non ci avrebbero scommesso un euro, diciamo, sì, in questa idea, e a distanza di 4-5 anni siamo una realtà eccellente. Ma da chi è partita l'idea? Da Don Antonio? O Don Antonio sì, ci ha dato l'idea, diciamo. Poi voi l'avete coltivata e l'avete portata avanti? Ci abbiamo creduto innanzitutto e poi l'abbiamo coltivata e pian piano la stiamo ancora coltivando. Il percorso non è finito, anzi possiamo dire abbiamo appena cominciato. Che tipo è Don Antonio? È una forza, è uno carismatico, è uno che vi dà... È un vulcano. E però lui si è fatto tramite con la curia per darvi in gestione questo servizio, perché le catacombe sono, non so, proprietà, sono esclusiva della curia, è così? Cioè no, ci voleva sono del comune, di chi sono? No, le catacombe sono proprietà del Vaticano. Ecco, il Vaticano, per non gestirle da lontano, le ha date in gestione alla diocesi. La diocesi ha fatto un grande passo e ha deciso di affidare la gestione delle catacombe ad una realtà del territorio, che è la cooperativa La Paranza. Da quel momento in poi è nato un circuito incredibile che ha portato a mettere in rete giovani del territorio e i privati. E i privati che investono in questo sogno, il sogno è che Napoli e tutta l'Italia può rimarginare le proprie ferite valorizzando il patrimonio storico-artistico, e cioè facendo fundraising con i privati e creando occupazione giovanile. Il risultato è esplosivo e lo si vede qui alle catacombe di San Gennaro. Ecco, come si svolgono queste visite guidate? Cosa si vede e come la racconti tu, per esempio? Noi siamo aperti tutti i giorni e ogni ora parte un tour guidato, e la catacomba è un incredibile tesoro sotterraneo. Non immaginate le catacombe romane, perché a Napoli le catacombe sono scavate nel tufo, che è una pietra che grazie alle sue caratteristiche ci permette di avere delle vere e proprie città sotterranee, cioè vedrete basiliche, corridoi, strade all'interno della collina di Capodimonte, però tutto questo senza scendere troppo in profondità. E poi la ricchezza degli affreschi e dei mosaici colpisce il visitatore, che sicuramente non si aspetta di trovare a Capodimonte un tesoro storico-artistico di questo periodo. Altro punto fondamentale è la stratificazione artistica, che un po' caratterizza tutta Napoli. Ah, sei lunga tu, sei entrato nella parte, la stratificazione artistica. Ma queste cose dove le hai imparate? Le hai imparate sul campo o hai anche studiato per diventare una guida? Siamo autodidatti e poi abbiamo studiato, abbiamo fatto dei corsi di specializzazione, molti di noi fanno l'università, altri l'hanno già completata, quindi tutti Quanti siete, Enzo? Promuovere al meglio. Quanti siete del gruppo della Paranza che fate queste visite guidate? Oggi circa 18, inizialmente eravamo in 6. Un bel gruppo. E si è sparsa la voce tra i turisti, sanno che oltre alla visita c'è anche la guida, che dà un valore aggiunto, perché naturalmente avere dei ragazzi giovani frizzanti come voi che ci mettono il cuore, sicuramente è più piacevole, no, fare la visita. Esattamente, con voi. E lei immagini di fare una visita con un'audioguida fredda e poco emozionante. Invece la cosa bella che viene fuori poi dalle interviste ai nostri visitatori è che la prima cosa che viene comunicata, che arriva al visitatore, è la passione e l'entusiasmo. E quindi questi sono elementi fondamentali, Enzo, per la promozione. Secondo te si può vivere di solo turismo a Napoli, ma anche in Italia? È un dibattito questo che si fa anche sui giornali, si dice no, ci vuole l'industria, la fabbrica, la manifattura, qualcuno dice ma no, l'Italia è un paese meraviglioso, basta il turismo. Sicuramente sicuramente con il turismo non abbiamo concorrenza, anche perché il nostro patrimonio è unico e inimitabile e può dare veramente lavoro a tanti. All'estero vediamo che intorno a delle pietre bianche pulite messe sui piedistalli intorno nascono delle vere e proprie città, quindi a Napoli e in tutta l'Italia dove abbiamo altro sicuramente possiamo fare molto di più e molto meglio. Senti, ma che cosa dicono i tuoi amici del Rione Sanitale e gli altri ragazzi che non partecipano, che sono lontani da questa tua iniziativa, dalla cooperativa, dall'impegno anche tuo professionale, da questa strada che hai scelto, che magari invece fanno una vita più non so come definirla, no? Che non hanno avuto magari questa opportunità, magari non vanno a scuola, ciondolano, eccetera. Come ti guardano? Come un marziano? Ti invidiano? Ti pigliano in giro? No, anzi, come uno fortunato, perché innanzitutto lavoro in un periodo particolare. Tra l'altro faccio un lavoro che amo fare, quindi non lo chiamerei nemmeno lavoro, quindi sono semplicemente uno fortunato. E la cosa bella è che questo poi sensibilizza il quartiere Sanità, che è un quartiere molto popolare, tra l'altro uno dei più antichi di Napoli, e educa, noi diciamo stiamo educando alla mondialità, cioè il fatto di vedere dei turisti che passeggiano nel quartiere dove qualche anno fa era soltanto vissuto dagli abitanti del quartiere, questo fa pensare che c'è speranza e piano piano, un poco alla volta, tutti lo stanno vedendo e lo stanno riconoscendo. Va bene, grazie. Salutaci Don Antonio e anche gli altri ragazzi della cooperativa La Paranza. Enzo Porcio, l'avete sentito, è forte, vanno forti questi ragazzi. Io insomma a Napoli non so se ci vado nelle prossime settimane, però una visita alle catacombe con Enzo la farei molto volentieri. 800 24 0024, ci risentiamo tra un attimo. Cosa abbiamo di buono questa sera? Cosa c'è di buono? Oh. Polpette di Bavaria. Peccato, tu non puoi mangiare. No. Mi presento, sono Gallo. Io non vado a cavallo. Ho un programma innovativo. PD, partito positivo. Gallo, partito positivo. Gallo, partito positivo. Gallo. Beh, anche noi di Si può fare siamo entrati nel clima della campagna elettorale, abbiamo scelto, grazie a Giorgio De Luca, questa segnalazione, il nostro candidato Gallo, partito positivo. Giorgio De Luca che sta ancora cercando la donna di Giorgio, sì, me lo confermi, sì, è certo, quindi su Twitter aiutatelo a trovare la donna di Giorgio. Questo è Gallo, partito positivo. Tra poco parleremo di una cosa che riguarda la politica, i costi della politica. Stop agli abbonamenti allo stadio gratis. Andremo in una città, diciamo, del centro-nord, per non entrare troppo nei dettagli, per lasciare un po' di suspense. Intanto vi ricordo, concorso, andate sul sito, votate la vostra storia preferita, vi portate a casa un soggiorno sostenibile di EcoTube e diventate amici della pagina Facebook di Si può fare, perché o anche su Twitter vi comunicheremo quando bisognerà mandare l'SMS con la mail in cui vi siete registrati sul sito per partecipare al concorso, quindi a vincere questo premio che viene messo a disposizione dagli amici di EcoTube. A 800 24 00 24 abbiamo qualche ascoltatore al numero verde? Sì, Giuseppe da Arezzo. Arezzo, Giuseppe, buongiorno. Sì, eccoci. Buongiorno, sono qua. Senta, sì. Io così ho ascoltato la vostra trasmissione, allora sono una quindicina di minuti però che non ero più in macchina e non so cosa sia stato detto nel frattempo, però volevo dire che avevo ascoltato il sindaco in un contraddittorio in TV, sì, in una di Adro, parliamo di Adro, sì, di questa storia dei bambini della mensa, e appunto mi ero fatto un'opinione naturalmente. Ora, il sindaco mi sembra che aveva parlato di un costo di 1,50 € circa al giorno per bambino per il costo di questa mensa, no? Allora, sì, sì, può darsi, sì. Io dico, se, allora, perché il discorso, chiaramente i bambini è giusto che abbiano un sostegno, un supporto, eccetera, però ora per 1,50 € magari c'ha il genitore o ambedue che fumano, Ora, si rende conto che per fumare almeno 5 euro al giorno uno se li spende? Sì, e ma, allora... magari lo dice lei, che lei conosce i genitori dei bambini che fumano e spendono i soldi nelle sigarette, lei è sicuro di questo? L'ente sociale dovrebbe verificare se realmente... No, ma lei questa cosa delle sigarette, chi gliel'ha detta? Cioè, è una sua idea? No, chi me l'ha detta? No, intendo dire, siccome molte, moltissime persone fumano, dico, allora, è un'ipotesi, verifichiamo se questi signori veramente non si possono permettere di spendere un euro al giorno, perché se fumano magari ne spendono 5 al giorno e allora preferiscono fumare che pagare la mensa del bambino? Non lo so, io non sono razzista assolutamente, perché per me che siano bianchi, neri e di tutti i colori, di tutte le nazionalità, ognuno ha diritto a vivere e avere delle opportunità per guadagnare. Va bene, è chiaro Giuseppe quello che lei sta dicendo. D'altra parte c'è questa questione delle dichiarazioni di ISE, e l'assistente sociale dice che non sono vere, e quindi da quelle sembrerebbe che i bambini appartengono a famiglie che hanno bisogno, però l'assistente sociale che le vede dice che non è vero, e allora poi qua diventa anche un contenzioso. Giusto per ribadire il concetto, quello che a noi interessava era il gesto di solidarietà che si è messo in moto quando qualcuno sente, crede, è convinto che ci sia un torto nei confronti di questi bambini, perché poi può darsi che abbia ragione il sindaco, ma se non avesse ragione il sindaco, allora è giusto che qualcuno ci metta una toppa. 800 24 00 24, vi vogliamo anche chiedere oggi al numero verde, magari tra poco, se nelle vostre città i consiglieri comunali, le giunte, gli assessori vanno ancora allo stadio gratis oppure no. Insomma, l'avete capito, siamo a Parma. Parma in settimana ha preso una decisione relativamente a questo: stop agli abbonamenti gratis per i consiglieri comunali, per gli assessori, per chi? Cerchiamo di capire che cosa è stato deciso. Abbiamo convocato il presidente del Consiglio Comunale di Parma in persona, Marco Vagnozzi, che tra l'altro è impegnato nel trasloco, vero Vagnozzi? Sì. Gli abbiamo tolto qualche minuto, è lì con lo scatolone in mano che sta traslocando, speriamo di non disturbarla. Insomma, una bella giornata almeno a Parma, perché quando uno fa trasloco e piove in genere c'è da suicidarsi. No, non piove per fortuna, solo un po' ecco. Freddo. Vabbè, questo è normale, insomma, però. Allora Vagnozzi, qual è la decisione che avete assunto o la proposta che avete fatto? È molto semplice. Il comune di Parma ha a disposizione dei biglietti per lo stadio Verdini, e una grossa parte di questi biglietti era riservata agli assessori e ai consiglieri comunali. E gli assessori, il sindaco, che si erano già rinunciato, la maggioranza, quindi fatto dal Movimento 5 Stelle, aveva già annunciato che non avrebbe richiesto gli abbonamenti intestati, poi ha cercato di aprire questa cosa qua anche agli altri consiglieri, anche della minoranza, insomma, Liste Civiche, il PD e quant'altro, hanno accettato, e quindi siamo riusciti a mettere a disposizione una ventina e passa di biglietti a disposizione. Abbiamo cercato di convogliare questi biglietti, che comunque non rappresentavano una minore spesa per il comune, perché c'era una convenzione che dava questo diritto, e i consiglieri hanno deciso, come c'era questa opzione, di mettere a disposizione dei bambini che sono in affidamento presso delle famiglie, quindi o degli istituti che accolgono dei bambini che hanno delle situazioni un po' problematiche, e quindi abbiamo dato vita a questa cosa qua. Abbiamo messo a disposizione biglietti, e quindi delle famiglie, magari i bambini, anche alcuni chiaramente con figli naturali, potranno usufruire, magari a turnazione se non si riesce ad accontentare tutti, avere la possibilità di andare a vedere le partite del Parmacalcio. Senta Vagnozzi, ora non vorrei entrare troppo nei tecnicismi, però io non capisco perché questa è un po' una cosa che si ricorre un po' nel Movimento 5 Stelle, no? L'iniziativa naturalmente è ottima, altrimenti non vi avremmo convocato, si può fare, buone notizie, meglio di così, però voi siete in maggioranza, no, a Parma, perché non togliere con una decisione vostra, della maggioranza, direttamente questa cosa della convenzione, dei biglietti gratis? Invece bisogna aderire volontariamente, per cui ci saranno dei consiglieri che non hanno aderito che continuano ad andare allo stadio con l'abbonamento, no? Grazie a questa convenzione. Perché non fare una legge nuova anziché muoversi su base volontaria? Mi sembra di aver capito che è un po' questo quello che succede. Ma sì, non abbiamo voluto fare la legge perché abbiamo voluto proprio dare la mettere a disposizione, diciamo, della sensibilità da parte del consigliere, come un po' un virus, no? Ad esempio a Milano il consigliere Calise, sempre del Movimento 5 Stelle, lui ha rinunciato, sì, però insieme a lui non ha rinunciato a nessun altro, no? Sì. Noi che siamo in maggioranza siamo riusciti noi a rinunciare e a, tra virgolette, contagiare di queste buone pratiche anche altri consiglieri. Non si capisce però perché non si fa mai una legge. Lei ha citato Milano, io ricordo che le avevamo anche intervistati tempo fa, hanno cambiato parte della convenzione, ci sono ancora gli abbonamenti gratis per i consiglieri, hanno ridotto alcuni dirigenti eccetera, hanno messo anche lì a disposizione di disabili, alcune famiglie in particolare che hanno più bisogno eccetera, però restano i biglietti. Vabbè, insomma, voi dite che lo fate così perché volete creare una contaminazione, cioè su base volontaria bisogna aderire a questa iniziativa. Secondo me era più semplice tagliare direttamente anche questo cordone ombelicale tra la società di calcio e il comune, però insomma poi guardi, ognuno la vede come vuole. Lo spiego perché appunto questo qui è un discorso tra il comune e la società di calcio. Sì. Quando noi, ad esempio, come la Fondazione Teatro Reggio, no? Il sindaco di Ceratti, essendo anche presidente della Fondazione Teatro Reggio, lui è riuscito da lì ad imporre il taglio drastico ai consiglieri e agli assessori. Quindi se ci vogliono andare li pagano. Quindi qua si tratta di andare a ricontrattare una convenzione. Che lo farete? Adesso, insomma, con tutto il problema di Parma. Immagino, perché i problemi non mancano. L'ex sindaco è finito in manette questa settimana, avete un buco da ripianare di quanto? Siamo ancora sugli 800 milioni di euro tra il comune e le partecipate. Quindi insomma una roba, una voragine, per cui certo questa sarà una goccia, diranno gli ascoltatori, nell'oceano, però a suon di gocce bisogna pure svuotarlo col secchiello questo oceano. Senta, le piace l'inno del Parma, quello nuovo, preferiva quello vecchio? Perché allo stadio poi alla fine si va anche, adesso glielo facciamo sentire, per prendere voti, i politici ci vanno anche per questo? È un po' così, Vagnozzi? Ma sinceramente non so l'utilità per la funzione del consigliere comunale o dell'assessore di andare ad una partita di calcio. Alcuni sostengono che durante la partita si riescono anche a mettere sul tavolo delle trattative e quant'altro. Poi ci si fa vedere e si fa anche un po' di campagna elettorale. Sentiamo l'inno, quello vecchio del Parma, sentiamo qual è più bello. Ce l'abbiamo, Forza Parma? Sì. Non ce l'abbiamo. Ce l'avevamo, Forza Parma, avevamo detto no? Non c'è. Vabbè, non c'è. Vagnozzi, che dire. A questo punto niente, bravi, perché avete preso almeno una decisione. Io sto chiedendo all'800 24 00 24 a tutti di raccontarci come, perché questa è un'onda, no? Nelle varie città si sta un po' muovendo, non se ne può più di questo privilegio dello stadio gratis per i consiglieri, gli assessori. Gli assessori ci vanno ancora allo stadio gratis lì a Parma, però? No? No. Quindi no. Consiglieri e assessori? Tutti? Esatto. Tutti pagano il comune di Parma ha disposizione, sì, 10 biglietti quando ci sono magari degli ospiti, che può essere ad esempio una delegazione straniera che viene per il gemellaggio di quella e si trova in concomitanza della partita, allora se hanno piacere gli si porta a vedere la partita, tutto qua. Ma gli assessori, questo lo disse già anche prima, anche l'assessore allo sport direttamente, quando vanno a vedere la partita pagano il biglietto. Eccolo qua. E tutti i campioni son del Parma, i prodi calciatori vinceranno, sono leoni, fanno gol, sempre gol, poi nessuno li potrà fermare, sono forti e sanno lottare, fanno gol, sempre gol, Ragnozzi, ha sentito? Io mi ritrovo di più in questo, più gagliardo rispetto a quello nuovo. Non so lei, ma lei è tifoso? Bagnozzi? Ma poco. Quindi c'è stato un sacrificio relativo per lei. Per un motivo. Sì. No, per un motivo. Io ero un forte appassionato di calcio. Sì. Però le vicende che riguardano il calcio, soprattutto, lasciano questo amaro in bocca. E questa iniziativa che abbiamo fatto, proprio anche di coinvolgere le famiglie di Italia, è anche questo un segnale verso il mondo del calcio, no? Diciamo sempre che vogliamo riportare alle famiglie, che non ci devono essere i toppisti che vanno a fare, non ci devono andare alle famiglie. Anche questo ci sembrava un segnale forte. Va bene. Grazie mille a Marco Bagnozzi, presidente del Consiglio Comunale di Parma. Stop agli abbonamenti gratis per i consiglieri, questa è la notizia. Da Parma ci trasferiamo tra poco a Bolzano, dopo il traffico. Lo stipendio non lo piglio, giusto un posto per mio figlio, solo un modico sussidio per il piccolo fastidio. Gallo, partita con il tiro. Gallo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. State andando su Facebook a fare mi piace alla pagina di Si può fare? Fatelo, soprattutto se volete partecipare anche al concorso con cui potete portarvi a casa un soggiorno sostenibile di EcoTube votando le storie preferite di questo primo anno di Si può fare tramite Facebook, Twitter, e poi lo diremo anche in onda, vi avvertiremo quando bisognerà mandare l'SMS in onda in diretta con la mail con cui ci si è registrati al concorso per poter poi accedere alla vittoria di questo premio. All'800 24 00 24 abbiamo chiesto i vostri interventi, però non chiama nessuno da Adro o da Bergamo, e ci vorrei anche vedere, Adro è piccolina, perché bisogna conoscerla questa vicenda per poterla giudicare, credo. Però sentiamo Simone da Prato, buongiorno, se chiamava per Adro oppure per qualcos'altro. No, buongiorno, chiamavo proprio per il discorso della mensa dei bimbi che non facevano arrivare, insomma, e mi ricollegavo anche al vostro ascoltatore di Arezzo. Il discorso parte già da un principio molto sbagliato, che è quello praticamente che i bimbi dovrebbero essere tutelati sempre. Quindi io dico, se la spesa per il mangiare dei bambini è di un euro e poco più al giorno, no? Allora leviamo un privilegio come quello del abbonamenti per i consiglieri e tutti i vari abbonamenti e tutti i vari privilegi che hanno questi senatori e tutto, e andiamo a discutere su una mensa per i bambini. Mi sembra proprio gli antipodi, mi sembra proprio una cosa assurda, non concepibile. Quindi io discuterei se la mensa darla a tutti i bambini gratis, se fosse possibile. Non discuterei di togliere ai poveri se fumano o se non fumano, insomma. È proprio secondo me un'impostazione sbagliata del problema. Va bene, grazie Simone per questa sua testimonianza. Adesso, come detto, ci spostiamo a Bolzano, dove una ne fanno e 100 ne pensano. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a The Drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a The Drive. Spaghetti, pollo e insalatina, chissà se è anche con questi ingredienti che a Bolzano cucinano e organizzano le loro cene sostenibili, che hanno anche un nome particolare, Voku Poku, non so se l'ho pronunciato bene. Lo chiediamo a Gaia Palmisano, che è una delle animatrici di questa iniziativa, che adesso spiegheremo. Gaia, buongiorno. Buongiorno, l'ha pronunciato bene. Voku Poku, sì. Che vuol dire? Poco viene dal dialetto sudtirolese e significa Volkskuchel, che in italiano Oddio. È traducibile con cucina popolare. Ah, va bene, cucina popolare, Volkskoku, Voku Poku, che è carino. Sì. Il pollo non c'è nelle nostre cene perché sono cene vegetariane, anzi, aiaiai. Dire meglio, sono quasi sempre vegane. Aiaiai, ancora peggio, cioè proprio niente, soltanto verdure, neanche l'ombra di proteine, di qualcosa di un po' gustoso. Ah, no, beh, dai, qualche legume, cereali. Una zuppetta di farro, ecco, questo è, diciamo, il massimo dell'eccitazione. Vabbè, però non è questo che conta, cioè il menù conta fino a un certo punto. La notizia qual è? È che voi andate al mercato, se ho capito bene, ogni sabato. Ogni sabato, adesso le facciamo una volta al mese, l'anno scorso erano una volta in settimana. Andiamo al mercato del sabato e recuperiamo gli scarti, gli avanzi. Esatto, che altrimenti verrebbe buttato. Roba buonissima, che non so, l'insalata magari che si è un po' sbeccucciata, cose non vendute a fine giornata, che spesso che fine fanno? Vengono gettate? Vengono gettate perché, essendo sabato, domenica non è giorno di mercato e quindi per la settimana successiva sarebbero in uno stato non più. Che è una cosa tristissima, il cibo buttato via è una cosa veramente. D'altra parte, quando c'è in ballo la distribuzione, che è necessaria, grande distribuzione, i mercati, finisce spesso così, è quasi inevitabile, no? Sì. Cioè, voi, insomma, nella scheda di presentazione anche dell'iniziativa citate alcuni dati. Secondo, ora non so più qual è la fonte, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo al mondo. In Italia 10 milioni all'anno, secondo la Coldiretti. 10 milioni di tonnellate di cibo sprecate, una roba pazzesca. E voi andate... è uno studio della FAO per il congresso Save the Food. Sì, noi andiamo e recuperiamo questo cibo in seno all'iniziativa Transition Bolzano, che fa parte, insomma, del network delle città in transizione. E il bello è che poi la cena è sostanzialmente gratuita, no? Perché a parte il lavoro dei volontari, la roba non costa nulla, quindi uno può andare una volta al mese a cena gratis. Sì, e c'è sempre un evento culturale legato alla sostenibilità, una discussione aperta e soprattutto c'è spazio per convivialità. Mi fai in 30 secondi una ricetta veloce per qualcosa di, per questi avanzi da mercato di verdura? Insalate tantissime, macedonia, sugo di pomodoro, perché i pomodori anche a dicembre non mancano mai al mercato, pasta... E qualche volta verdura al forno, una verremo torta. A trovarvi, Gaia, grazie. Voku Poku a Bolzano, le cene sostenibili. Per oggi ci fermiamo qua, grazie a Giorgio De Luca in assistenza in diretta, Franco Pianzanini in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, anche Pietro Lacorte in regia. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno. Mi chiamo Cinzia e volevo lasciare il mio messaggio per salvare l'Italia. Io ho una sartoria e mi piacerebbe tanto insegnare la pratica, ma solo la pratica, perché già la teoria la imparano da un sacco di parti, a delle ragazze volonterose, però che lo Stato mi aiutasse e che se le vedesse qua imparare e non mi dicesse che io le assumo in nero, perché tanto non sanno lavorare, perciò gli potrei insegnare un lavoro. E questo lavoro qua che sta scomparendo probabilmente avrebbe un futuro. Grazie, buongiorno. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Cosa abbiamo di buono questa sera? Cosa c'è di buono? Polpette di Bavaria. Peccato, tu non puoi le mangiare. No, no. Sì!